E come sempre, in occasione di un concerto che si terrà al Binario 69, in via dei Caracci 69 a Bologna, sabato 22, abbiamo con noi in collegamento Lorenzo Machiavelli dei Mississippi Gange, che appunto suoneranno sabato. E la loro musica prende ispirazioni dalle contaminazioni del blues dall'Africa al delta americano, per poi tornare verso Oriente in un dialogo che fluisce nell'approccio della musica indiana. E quindi vogliamo salutarlo. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao Carlotta e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, iniziamo subito dalla prima domanda che vogliamo farti. Come nasce il progetto, comunque il gruppo? Allora, questo progetto in realtà è piuttosto recente, nel senso che nasce in un concerto che abbiamo fatto quest'estate con Elisa. Facendo una premessa, io e Elisa siamo amici già da diverso tempo, diversi anni, e collaboriamo insieme, abbiamo collaborato insieme in diversi progetti e volevamo crearne uno tutto nostro. In occasione di un concerto quest'estate che si è tenuto in Friuli, che avevano invitato Elisa a suonare, e Elisa ci ha invitato me, un percussionista, e Federica, che è un'altra nostra amica, un'altra sua amica con cui già collaborava. E da lì, insomma, il concerto è partito, diciamo, quasi come una jam session, e è diventato un progetto vero e proprio, è andato molto bene e ci siamo, come dire, guardati in faccia a fine concerto e mi hanno detto: beh, questo è il progetto che stavamo cercando, dobbiamo portarlo avanti. E da lì abbiamo cominciato a lavorarci. Certo, quindi siete una formazione abbastanza recente, ma avete già pubblicato dei lavori, qualcosa? No, ancora no, però a breve ci stiamo lavorando e lo faremo nell'anno nuovo. Visto l'incrocio tra l'Africa e l'India, quali sono le vostre sonorità? Come definireste il vostro genere? Il nostro genere, noi ci piace definirlo proprio anche come tipo di sound. Abbiamo coniato questa piccola frase che si chiama melodic fields, cioè campi melodici. Ci piace questo aspetto, questa immagine, cioè di cercare di creare proprio dei campi sonori piuttosto minimale, quindi questo è per l'appunto, diciamo, l'ispirazione che viene dalla parte indiana, insomma, dai nostri ascolti di musica indiana, e nel fluire, insomma, della musica insomma, dei campi melodici minimali costruiamo sopra improvvisazioni e temi senza una direzione, diciamo, sempre precisa, ben definita, lasciando proprio fluire un po' come l'immagine anche dello scorrere dei fiumi, la musica e le nostre influenze e ispirazioni che prendono, diciamo, vita al momento. Chiaro, ma ci racconti un pochino la vostra formazione, cioè che strumenti utilizzate, come siete divisi, ecco. Certo, allora Elisa, che è, diciamo, la chitarra principale, ed è chitarra acustica, elettrica e slide. Per l'appunto lei ha anche ascolti e sonorità molto più blues, se dita, proprio il delta del blues anche. E io sono chitarra elettrica e sitar, quindi questo anche l'aspetto, diciamo, l'approccio sulla musica indiana, anche se non mi definisco un suonatore di sitar, suonatore di sitar sono sicuramente altri, sono più un chitarrista elettrico, certo. Vengo dal rock, quindi tutti gli altri ascolti, quindi tanto per intenderci. Poi c'è Michele, che è, diciamo, il nostro grande zio, che è un percussionista di tabla napoletano che è da qualche anno a Bologna, percussionista, ora suona tabla ma comunque ha suonato anche in vari progetti a Napoli, anche congas e altri tipi di percussioni. E Federica, che è una cantante con cui Elisa per l'appunto già collaborava in altri progetti anche di musica popolare, in altre situazioni, e tra l'altro bravissima perché padroneggia spagnolo, inglese e anche francese abbastanza bene. Beata lei. E, sì, esatto. E qui, infatti, per l'appunto anche certi testi con cui ci siamo, diciamo, cimentati adesso a scrivere i primi pezzi, si spazia per lo più sul francese e l'inglese. Ancora non lo spagnolo, ma può darsi che arriverà qualcosa anche di più latino. Quindi questo è un po' il quadro, insomma, di noi quattro. Veniamo tutti da esperienze diverse e anche generi diversi. E è stato un incontro per lo più, diciamo, di amicizie in comuni, soprattutto la mia e di Elisa, e poi che ha riunito poi Federica e da ultimo Michele. Allora, in questo triangolo tra l'Africa, l'America e l'India vi siete incrociati casualmente, diciamo, è stata una formazione che è nata in maniera naturale e ci hai detto che non avete ancora effettivamente pubblicato nulla. Avete qualche progetto futuro, qualcosa che bolle in pentola dunque? Sì, abbiamo più o meno 10-15 brani. Nell'anno nuovo stavamo già pensando di registrarli, di cominciare le prime session. Ancora, diciamo, sono ancora per ora solo pubblicati quei due video che abbiamo messo su YouTube, che sono poi due estratti del concerto per l'appunto di quest'estate al Festival di Aeson in Friuli, quello a cui accennavo prima. Però per il momento ancora di concreto non c'è nulla, arriverà a breve comunque. Speriamo che il 2019 porti anche questo. E invece sì, ricordiamo, sì, anzi ricordaci tu, quando suonate la prossima volta, cioè quando sarà il prossimo concerto? Allora, il più imminente chiaramente è sabato al Binario, vi aspettiamo tutti, credo che già anche tanti ascoltatori di Radio Fujiko lo conoscono bene, è una delle realtà più belle che c'è a Bologna adesso, non lo dico veramente, insomma, perché sono di parte, conosco magari alcuni ragazzi che ci lavorano dentro, ma è veramente una bella fucina, veramente un bel ambiente positivo, ricco su tutti gli aspetti. E poi nel 2019 si stanno delineando già anche altri concerti, ma quelli li faremo sapere a breve sulla nostra pagina Facebook, che potete seguire chi vuole e chi può. A proposito, appunto, chi vuole seguirvi, dove può farlo? Sulla pagina Facebook? Avete anche un sito? Abbiamo solo la pagina Facebook, pardon, Mississippi Gange, se volete iscrivervi ci trovate direttamente lì. Perfetto, allora Lorenzo, noi ti ringraziamo moltissimo per la tua disponibilità, per questa breve intervista, diamo appuntamento alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori al vostro concerto al Binario